allora ora per lei si introdurrà la tecnica della dimostrazione di Gödel, che è un po' il paradigma di questi strani anelli, almeno per i matematici e poi anche per l'informatica. Funziona? Sì. Prima di cominciare, lasciatemi dire una cosa che è già stata detta, ma va ricordata. Solitamente le traduzioni sono inferiori all'originale. Nel caso della traduzione di Gödel-Escher-Eschler, dobbiamo dire che la traduzione è superiore all'originale grazie al lavoro che c'è stato svolto da Colterra e dai suoi colleghi. Confesso che sono un po' imbarazzato di fronte a parlare del teorema di Gödel in 15 minuti. Credo che mi si volesse far entrare nel Guinness dei primati. Allora ho fatto una scelta che spero di vada bene, cioè che è quella di parlare delle idee e dei passi fondamentali che portano alla dimostrazione di questo teorema e poi sollevare alcune questioni di carattere, diciamo così, un po' filosofico. Un attimo che devo recuperare la presentazione. Allora, non salvo, lo modifico. Allora, in sostanza quello che dovrei presentare è un circolo, un anello, che è nel quale si riassume, se vogliamo in poche parole, l'essenza della dimostrazione di Gödel. È cioè quel circolo per cui le espressioni possono essere codificate, espressioni linguistiche possono essere codificate da numeri, e d'altra parte i numeri possono ricorrere in espressioni linguistiche che se stesse sono codificate da numeri. Se vogliamo, tutta l'essenza del teorema di Gödel sta in questo. Per illustrare, diciamo, le idee che stanno alla base di questo teorema, ho bisogno di far riferimento a due cose fondamentali. Una nozione determinata di linguaggio, non una nozione qualsiasi, abbiamo bisogno di una nozione determinata di linguaggio, e poi anche una certa concezione di numeri, una concezione per così dire tipografica di numeri, che è molto utile, forse non è strettamente necessaria, ma è molto utile per dare ulteriore interesse a questo risultato. Come non enuncio definizione, ma presento, faccio solo degli esempi. Un esempio di linguaggio determinato è quello che è noto a tutti quelli che hanno fatto un corso elementare di logica, nel quale abbiamo dei simboli primitivi, anche qui i colori, beh, sono un po' stravolti, ma comunque si vede, l'importante è la differenza di colore, in questo caso non i colori di questo metallo. Abbiamo dei simboli primitivi e poi delle regole che ci consentono di mettere insieme questi simboli. Abbiamo una regola che ci dice quali sono le espressioni che vogliamo considerare, le espressioni più semplici che vogliamo considerare, poi un'altra regola che ci dice come costruire le espressioni più complesse. I dettagli qui non sono importanti, l'importante è afferrare l'idea. Ecco, un esempio di espressione complessa che si può costruire è questa, ma l'esempio, ripeto, non ha molto importanza. Per quello che riguarda i numeri, c'è una concezione dei numeri che si trova, che è suggerita, direi, da un passo famoso di David Hilbert, è stato colui che in qualche modo ha ispirato Gödel, perché Gödel ha preso i problemi, diciamo, che sono risolti positivamente o negativamente dai suoi teoremi, proprio dal programma matematico, o meglio dire metamatematico, di David Hilbert. In un famoso per gli addetti, perlomeno, passo di Hilbert, di un articolo che si intitola Sull'infinito, e gli dice: nella teoria dei numeri abbiamo i numerali, numerali vuol dire segni numerici, e presenta queste sequenze di 1, dove ogni numerale è percettivamente riconoscibile dal fatto che in esso 1 è sempre seguito ancora da 1. Questi numerali non hanno di per sé alcun significato, Nella teoria elementare, tuttavia, abbiamo bisogno, oltre a questi segni, di altri segni che hanno un significato e servono a trasmettere informazioni. Per esempio, il segno 2 come abbreviazione del numerale 1-1 e il segno 3 come abbreviazione del numerale 1-1-1. E inoltre i segni più, uguale, maggiore e altri che servono per comunicare asserzioni. Così 2 più 3 uguale a 3 più 2 serve per comunicare il fatto che 2 più 3 e 3 più 2, tenendo conto delle abbreviazioni, sono lo stesso numerale, cioè il numerale 1-1-1-1-1. Analogamente poi, eccetera, eccetera. Cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte, in sostanza, a una interpretazione dei numeri nella quale i numeri vengono identificati con sequenze di segni. Anche in questo caso abbiamo dei simboli primitivi, ho aggiunto lo zero che non è considerato nel passo di Lindbergh, l'uno, e poi abbiamo delle regole che servono per costruire delle espressioni più complicate. Qual è l'ovvia considerazione? L'ovvia considerazione è che espressioni e numeri si generano in modo analogo quando siano concepiti nel modo che vi ho illustrato. Ora, il passo ulteriore è questo. I numeri sono più semplici, anche se i numeri sono più semplici rispetto al linguaggio, tuttavia si possono usare per rappresentare, diciamo genericamente, le espressioni di un dato linguaggio, purché il linguaggio sia del tipo che abbiamo visto, cioè abbiamo dei simboli primitivi e delle regole per mettere insieme questi simboli. La rappresentazione, in questo sistema, che io non sto a presentare nei dettagli perché sennò non finiremo più, ecco, la rappresentazione consiste in una corrispondenza che si può costruire passo passo applicando delle istruzioni effettivamente eseguibili, e questo è un punto molto importante. L'ulteriore passo che dobbiamo fare adesso è questo. La corrispondenza tra espressioni e numeri può essere tale, può essere stabilita in modo tale che le proprietà, le caratteristiche di espressioni e relazioni sintattiche siano esprimibili come proprietà e relazioni numeriche. Quindi mi fermo un attimo. Abbiamo le espressioni, abbiamo i numeri, li possiamo mettere in corrispondenza, possiamo rappresentare le espressioni con dei numeri, ma non solo possiamo rappresentare le espressioni come dei numeri, possiamo tradurre in un certo senso le proprietà delle espressioni in proprietà numeriche. Proprietà numeriche di che cosa? Beh, ovviamente dei numeri che rappresentano le espressioni. Ecco, in particolare, questo è un dettaglio che è importante per la dimostrazione del teorema di Gödel, c'è un'operazione di sostituzione di una parte di espressione con un'altra che deve essere, che è esprimibile come un'operazione su numeri. Non ho tempo per entrare nei dettagli di questa faccenda. Ecco, il risultato, ecco, di questa corrispondenza che si può stabilire, una conseguenza, diciamo, di questa corrispondenza che si può stabilire tra espressioni e numeri, è che una dimostrazione che è una sequenza di espressioni che soddisfa opportune condizioni di natura formale, può anch'essa essere rappresentata da un numero. Una sequenza di espressioni può anch'essa essere rappresentata da un numero. Non solo, ma il fatto che questo numero rappresenti una dimostrazione può essere caratterizzato in modo aritmetico. Cioè la proprietà di essere una dimostrazione e quella di avere una dimostrazione sono anch'esse trasformabili in proprietà numeriche. Mi avete seguito abbastanza fino a qua? Spero di sì. Spero di sì. A questo questo punto facciamo un ulteriore passo che ci avvicina a, diciamo, al teorema di Gödel e anche, diciamo, agli anelli di cui vogliamo parlare e abbiamo parlato. Come si ottengono le espressioni autoreferenziali? Beh, le stesse espressioni del linguaggio aritmetico, cioè del linguaggio che parla dei numeri, possono essere rappresentate come i numeri. Abbiamo detto che si può mettere in corrispondenza le espressioni di un linguaggio con numeri, ma in particolare anche le espressioni di un linguaggio che parla di numeri. E questo è un punto importante. Sulla base di tale rappresentazioni, proprietà e relazioni sintattiche delle espressioni numeriche, cioè delle espressioni che parlano di numeri, possono essere espresse come proprietà e relazioni tra numeri. Cioè possiamo rappresentare la sintassi di un linguaggio numerico attraverso proprietà e relazioni di carattere aritmetico. Molte di queste proprietà, adesso non è possibile entrare in dettagli, però molte di queste proprietà hanno questa forma, si presentano come, che so, l'esistenza di della soluzione di un'equazione di carattere aritmetico, tanto per dare un'idea molto fuggente. Alla fine, e questo è quello che ha fatto Gödel, si può costruire un enunciato della teoria dei numeri che dice di se stesso menzionato come risultato di una certa operazione di sostituzione, dice di se stesso che non è dimostrabile. Arrivati a questo punto, ripeto il passo precedente, abbiamo la possibilità di esprimere aritmeticamente le proprietà di un linguaggio aritmetico, proprietà sintattiche di un linguaggio aritmetico, possiamo costruire, e Gödel ha mostrato come, un enunciato che dice di se stesso di non essere dimostrato. Naturalmente Gödel non ha costruito solo l'enunciato, se avesse costruito solo l'enunciato non sarebbe ricordato così come è ricordato a tutt'oggi. Ha fatto qualcosa di più. Ha dimostrato come dimostrano i matematici usando il linguaggio naturale, ragionando, ecco, da una parte sul linguaggio e dall'altra sui numeri, ha dimostrato che se è soddisfatto una certa condizione di coerenza nella quale non entro, tale enunciato non è dimostrabile, non è dimostrabile all'interno del sistema formale e non lo è nemmeno la sua negazione. Né lui né la sua negazione sono dimostrabili all'interno del sistema formale. Avrei finito per quello che riguarda la presentazione, diciamo così, dei momenti attraverso i quali si arriva al teorema di Gödel. Vi ricordo ancora i punti, prima di sollevare alcuni problemi di carattere filosofico: la corrispondenza tra espressioni e numeri, la possibilità di esprimere le proprietà sintattiche di un linguaggio aritmetico attraverso delle proprietà numeriche. Il teorema di Gödel ha quasi immediatamente sollevato un sacco di problemi anche di carattere filosofico. E il primo è molto noto, non lo voglio discutere, lo voglio solo presentare, è il problema della relazione che c'è tra la dimostrabilità formale e le capacità dimostrative umane. Questo è il primo problema che è stato sollevato. Lo illustro. Dimostrando che l'enunciato da lui costruito non è dimostrabile, Gödel ha dimostrato che esso è vero. Ha dimostrato che l'enunciato che lui ha costruito non è dimostrabile, quindi ha dimostrato che è vero. E tale enunciato afferma proprio di non essere dimostrabile. Si può concludere da ciò che l'uomo ha capacità di, qui c'è un errore, dimostrative superiore a quelle di una qualunque teoria formale? D'altra parte, La stessa dimostrazione di Gödel può essere formulata in una teoria formale, non è difficile, ci vuole solo pazienza. Si può da ciò concludere che le capacità dimostrative dell'uomo non eccedono quelle di una teoria formale? Non do nessuna risposta a queste domande, anche se ovviamente ho le mie proposte, vi illustro solamente la posizione di Gödel, quello che era la posizione di Gödel, attraverso una famosa disgiunzione, famosa perlomeno per gli addetti, e ve la leggo. Gödel la pensava in questo modo, dice: o la matematica è incompletabile in questo senso, che i suoi assiomi evidenti non possono mai essere compresi in una regola finita, in un sistema formale in sostanza, vale a dire che la mente umana, perfino all'interno del dominio della matematica pura, sorpassa infinitamente i poteri di qualsiasi macchina finita, oppure esistono problemi di Ofantei, Ofantei ha a che fare con la forma dei problemi, potete trascurarlo, assolutamente insolubili, dove non è escluso che entrambi i termini della disgiunzione siano veri. In sostanza Gödel ha un atteggiamento, almeno in questa disgiunzione, nella formulazione di questa disgiunzione, è un atteggiamento prudente. In altri scritti è un atteggiamento meno prudente, nel senso che propende chiaramente per pensare che la mente umana sia superiore alla capacità di qualunque macchina finita. Ma comunque qui, in questa disgiunzione, è un atteggiamento prudente, non si pronuncia. Quanto tempo? Allora, ecco, un secondo problema, vi presento solo il titolo, è questo, questo non lo illustro, ma presento. La presentazione che ho fatto io, l'interpretazione simbolica dell'aritmetica, può far pensare che la matematica sia pura sintassi, cioè studio della manipolabilità di sequenze di segni che non devono necessariamente avere un significato, ma solo soddisfare certe condizioni. Ecco, qualcuno, in particolare Carnap, ha detto che queste condizioni hanno una natura convenzionale. Ecco, Gödel era contrario, non vi dico altro, e andiamo avanti. Voglio andare all'ultimo problema, perché anche se questa dovrebbe essere una presentazione divulgativa, diciamo, del lavoro di Gödel, tuttavia non riesco a trattenermi dal fare un'osservazione riguardo a quelle che sono le presentazioni usuali, diciamo, del teorema di Gödel, in particolare le presentazioni che riguardano il significato dell'enunciato indecidibile di Gödel. Cioè la questione è: cosa dice l'enunciato indecidibile di Gödel, l'enunciato del quale non si può dimostrare né lui né la sua negazione? Si dice che l'enunciato costruito da Gödel dice di non essere dimostrabile. Dice di non essere dimostrabile. È un enunciato che dice di non essere dimostrabile. Ora, si potrebbe mettere in dubbio la sensatezza di un tale enunciato, o almeno la sensatezza di questo modo di presentare l'enunciato. Suona strano, insomma, un enunciato che dice di non essere dimostrabile, ricorda dei noti paradossi. Ora, c'è un dubbio di circolarità al quale ha risposto almeno parzialmente lo stesso Gödel, e questa è una citazione da Gödel. Contrariamente alle apparenze, una tale proposizione, dice Gödel, non contiene alcuna circolarità viziosa, poiché inizialmente essa asserisce soltanto che una certa formula ben definita è menzionata in un certo modo, complicato, è indimostrabile. Solo successivamente, e per così dire per caso, risulta che questa formula è precisamente quella mediante la quale la proposizione stessa era stata espressa. Io non lo so se questo passo di Gödel è chiaro. Io, andando oltre quello che dice Gödel, preferirei dire qualcos'altro. Che l'enunciato di Gödel è un enunciato che ha un suo significato aritmetico ben preciso, nel quale non c'entra minimamente la nozione di dimostrazione, perché la nozione di dimostrazione è chiamata in causa in virtù della corrispondenza, e quindi, diciamo, come enunciato aritmetico non contiene alcuna, minimamente alcuna circolarità. Però questo è forse un po' per gli addetti ai lavori. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, e che questa è quella, riguarda, diciamo, cosa determina quello che l'enunciato di Gödel si dice che dica. Vorrei fare una piccola... permettetemi di fare questa riflessione perché non riesco a trattenermi, perché sono un po'... non mi piace quello che viene detto nelle usuali presentazioni di Gödel. Quello che l'enunciato di Gödel dice dipende, o si dice che dice, che dica, dipende dalla corrispondenza fissata tra espressioni e numeri, punto uno. Ma anche dal fatto, e questo è il punto importante che forse non viene spesso, non viene sottolineato spesso, dal fare riferimento al cosiddetto modello standard della teoria dei numeri. La teoria dei numeri si lascia però interpretare in modi non standard, in base ai quali gli assiomi risultano veri e quello che l'enunciato di Gödel dice è falso. Cioè ci sono delle interpretazioni che rendono veri gli assiomi della teoria dei numeri e falso l'enunciato di Gödel. Sono interpretazioni strane, chiamate non standard, nelle quali succede che un numero può essere preceduto da infiniti predecessori. Non vado a entrare nel merito di questa questione, nei dettagli di questa questione. Ma allora, ecco, quello che intuitivamente viene considerato contenuto dell'enunciato di Gödel è qualcosa che non è determinato esclusivamente dall'enunciato, dalla teoria nella quale viene formulata e dalla corrispondenza espressioni e numeri. È determinato anche dal fatto di fare riferimento al modello standard, al modello usuale dei numeri, che non viene in qualche modo isolato dalla teoria. Vabbè, lascio per... basta, parlo altro cosa. No, grazie.